Buonasera cari radioascoltatori e bentornati a Giro di Boa, al vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa in studio e un saluto a Michele in regia. Ciao Michele e grazie per il supporto. Un saluto a tutti. In collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Annalisa, buonasera cari amici radioascoltatori. Dunque, cari allora... Alessandra. Sì, no, vai pure. Annalisa, un'altra puntata di Giro di Boa, come dicevamo, Giro di Boa è il programma di dibattito e approfondimento di Radio Alma. Dunque, dibattito e approfondimento sull'attualità italiana ed europea. Questa sera ci occupiamo, come nel primo argomento, dell'attualità italiana. Parleremo infatti di un problema, o meglio, di una manifestazione che avrà luogo fra due giorni in Italia. Facendo un po' di introduzione, il decreto Ronchi dello scorso novembre ha dato il via libera alla privatizzazione dell'acqua in Italia. Diverse e contrastanti ovviamente le opinioni sulla misura che è stata adottata dal Parlamento e ha dato adito ovviamente a non poche perplessità. Una delle paure più grandi è che una ricchezza del territorio come l'acqua, cioè una risorsa naturale, venga svenduta a multinazionali che poi detteranno prezzi e qualità al cittadino. Come si può immaginare, parecchi sono gli interrogativi sulla futura gestione dell'acqua. Fra due giorni, come dicevo prima, sabato 20 marzo, è prevista una manifestazione nazionale a Roma contro la privatizzazione dell'acqua. Questa manifestazione è stata organizzata da diversi enti, fra cui anche il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Scopo della manifestazione, oltre alla sensibilizzazione sulla questione dell'acqua, è anche la raccolta di firme che saranno poi presentate per sostenere il referendum della ripubblicizzazione dell'acqua. Ne parliamo questa sera con due ospiti che sono entrambi già in collegamento con noi. Annalisa, li vuoi presentare? Ascoltatori, questa sera abbiamo in collegamento telefonico Giuseppe Marino, giornalista dal 1996, vice caporedattore del giornale Per l'Attualità. Ha lavorato per svariati quotidiani, tra cui Il Tempo, Radio, fra cui Radio Capi, le emittenti televisive, siti internet e testate online, fra cui ricordiamo Il Nuovo.it. È autore del libro La casta dell'acqua, uscito a gennaio di quest'anno, e autore del blog Tra pubblico e privato. Buonasera Giuseppe. Buonasera. Il secondo ospite di questa sera è Paolo Carsetti, segretario del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Il forum è nato nel 2006 da un'esigenza di cambiare radicalmente il quadro normativo esistente. Gli obiettivi che il forum si prefigge sono la tutela della risorsa e della sua qualità, la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e la gestione dello stesso mediante strumenti di democrazia partecipativa. Maggiori informazioni sul forum si possono trovare sul sito acquabenecomune.org. E buonasera anche a Paolo. Buonasera a tutti voi. Io avrei subito una domanda, prima di ovviamente vorrei ringraziare i due ospiti in collegamento per la loro partecipazione al dibattito. È già stato citato due volte il decreto Ronchi dello scorso autunno, che prevede l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, tra cui dunque anche l'acqua, a bandi di gara, cioè a società con prevalenza di capitali privati. Il privato dovrà dunque necessariamente possedere non meno del 40%, mentre al pubblico è consentita una partecipazione con un tetto massimo del 30%. Queste sono a grandi linee le misure che sono previste dal decreto per la gestione delle risorse idriche. Che idea vi siete fatti i due ospiti, magari prima Marino e poi Carsetti? Siete favorevoli o contrari alle misure presentate nel decreto? Io credo che il decreto sia soprattutto ancora insufficiente, diciamo, a instradare nel modo giusto la gestione dell'acqua, la riforma della gestione dell'acqua in Italia, perché nel momento in cui si prevede comunque di vendere al privato il 40% delle quote, sarebbe necessario soprattutto innanzitutto un'autorità che controlli il rispetto della qualità della gestione, del rispetto anche dei consumatori, degli utenti, ma è altrettanto necessario stabilire delle regole che ci dicano se questa gestione è qualitativa, quali sono i parametri per giudicare se questa gestione è qualitativa. Attualmente questo è uno dei grossi problemi, cioè i contratti di servizio, le convenzioni con cui operano le società di gestione sono diverse l'una dall'altra, non sono chiare, hanno parecchie lacune e diventa anche difficile contestare poi al gestore di non aver rispettato la qualità, gli investimenti, bisogna che queste regole siano molto più chiare e omogenee nel territorio. Carsetti cosa ne pensa? Ma noi sin da subito abbiamo dichiarato la nostra netta contrarietà a questo decreto che sancirà la totale e definitiva privatizzazione dell'acqua potabile in Italia, perché quello che è stato dimostrato sino ad oggi, nel momento in cui il processo di privatizzazione è già in atto in Italia da fine degli anni 90, se parliamo dal punto di vista giuridico, già oggi in Italia il 95% della popolazione è gestito da società per azioni, che poi la maggior parte di queste siano a cosiddetto totale capitale pubblico, ossia il capitale sia detenuto interamente dagli enti locali, però comunque fanno riferimento al diritto privato. E non c'è effettivamente nessun controllo, però secondo la nostra visione rispetto alla gestione di un bene essenziale alla vita come l'acqua, non si tratta di una questione di controllo, si tratta del fatto che secondo noi è lo Stato che si deve far carico di garantire a tutti i cittadini appunto un bene essenziale e un servizio essenziale come quello idrico, per cui siamo assolutamente contrari, e la manifestazione del 20 lo confermerà, anche perché si prevede che sia partecipatissima. C'è una grande sensibilità effettivamente in Italia su questo tema, perché effettivamente viene toccato appunto un bene che è di tutti. Privatizzare non significa necessariamente che la gestione sia migliore di quella pubblica? Nel senso, questo magari è un luogo comune che in Italia si ha. Quando si dice privato si parla di efficienza, quando si dice pubblico si sottintende sprechi e non efficienza. Voi cosa ne pensate? Dunque, io vorrei fare una premessa che riguarda anche proprio il movimento di cui Carsetti è rappresentante, di cui in buona parte io parlo nel mio libro. Io ritengo che abbiano il grande merito di aver sollevato questa questione riscuotendo veramente una grande partecipazione in tutta Italia, e ritengo che i motivi per protestare ci siano tutti, perché comunque ci sono stati degli aumenti notevoli delle tariffe e a questi aumenti non è corrisposto un incremento della qualità del servizio, e soprattutto anche si sono assolutamente inariditi gli investimenti che dovevano essere invece lo scatto in più, qualcosa in più che questa riforma doveva dare. Allo stesso tempo però io auspico che il movimento, anche se capisco che ci sono delle premesse ideologiche ben precise, però io credo che si rischia in questo modo appunto di cadere nei luoghi comuni di cui lei stava parlando, Alessandra. Cioè, non è affatto detto che il privato sia il male e il pubblico sia il bene, ma nemmeno viceversa, ovviamente. Io credo che bisogna rifuggire da situazioni in cui vorrebbero farci cadere, chi crede alla mistica del pubblico buono e chi invece vuole essere sacerdote delle privatizzazioni a ogni costo, perché la storia anche di tutta Europa in questo senso non è omogenea, ci sono buone e cattive privatizzazioni e buone e cattive gestioni pubbliche, per questo io insisto molto invece sulle regole. Se poi invece si vuole stare ai fatti di questa privatizzazione, in questo momento è veramente un fantasma, cioè nel senso, fino a questo punto di privato c'è veramente poco, perché nel momento in cui non basta dire che una società è una società per azioni per dire che è privata, se poi dopo il controllo è totalmente in mano a enti pubblici, Carsetti diceva la maggior parte delle aziende sono in mano pubblica, non la maggior parte, è praticamente la totalità, perché nel mio libro scrivo che il 7% dei dati ufficiali delle aziende gestori dell'acqua in Italia sono in mano privata. Avendo fatto un aggiornamento recente, un controllo su alcune di queste, sono entrate nel capitale i comuni, e quindi molte di queste, neanche queste qui sono più, si possono più dire a gestione privata. E ci sono esempi invece di gestione pubblica, altrettanti esempi di gestione pubblica in Italia che non stanno affatto non stanno andando bene, per esempio in Versilia c'è una società che ha appena annunciato aumenti del 34% perché si è fortemente indebitata e ha giustificato questi aumenti dicendo che siccome il consumo dell'acqua dopo gli aumenti precedenti è diminuito, per tenere al passo gli introiti e coprire i costi del servizio bisogna aumentare le bollette, quindi è un cane che si morde la coda. Ora, l'idea di base della riforma, quella che è nata all'inizio degli anni 90, non era affatto quella di privatizzare. Io ho parlato e l'ho intervistato, che è contenuto nel libro, un'intervista col padre di questa riforma, che è un ex democristiano, il quale invece aveva in mente la creazione di una grande industria pubblica dell'acqua, che doveva nascere in seno all'allora IRI, quindi alle partecipazioni statali. Questo era, diciamo, quello che auspicavano i democristiani, mentre invece il Partito Comunista preferiva che la gestione fosse decentrata a livello locale, perché, come sappiamo, in molte regioni avevano la maggioranza. Quello che è successo, in effetti, è che si sono create si sono ridotti il numero delle aziende, si è introdotta la logica del diritto privato, che però appunto non è il male e funziona in tanti altri settori, e invece si è creata una casta di piccoli poteri locali a cui sostanzialmente l'acqua, anziché dare da bere, dà da mangiare, perché poi si sono creati piccoli appunto potentati, moltiplicate le poltrone, gli stipendi, e in assenza di regole chiare i controlli non funzionano. Carsetti, lei cosa? Concludo dicendo che non vale, non si può risolvere la questione, e questo veramente auspico che il movimento cerchi di evitarlo, insomma, cioè di è giusto usare degli slogan, ma non bisogna limitarsi a questo. Non si può dire, non so, l'acqua, il corpo è composto dal 70% di acqua, quindi è un bene, non può essere un bene sottoposto a regole di commercio, non è una merce, perché allora, non so, il corpo è composto anche al 18% di carbonio, e non per questo noi non sottoponiamo regole economiche il carbonio. Cioè, veramente rifuggiamo dalla logica degli slogan e cerchiamo di ragionare su come si può gestire bene l'acqua, dopodiché vedremo se come farlo con sistemi privati o pubblici. Carsetti, io volevo sapere, lei come risponde a Marino, al di là della battuta sul 18% della composizione del nostro corpo, per quanto riguarda soprattutto la questione delle regole e della trasparenza, come risponde? Ma la questione, io credo che sia, diciamo, appunto, non è una questione prettamente ideologica, e il fatto è che comunque una società e un soggetto privato ha per sua prima mission quella di massimizzare i profitti. L'esempio della società della Versilia sta proprio lì. Se io sono una società privata, che quindi fa capo alle regole del mercato, della concorrenza, e io sono obbligato, ovviamente, perché il mio primo obiettivo è quello di massimizzare i profitti, a dover aumentarne le tariffe nel momento in cui il consumo diminuisce, e ce ne sono tanti di esempi in Italia di questo tipo, e questo è il fatto, cioè è dovuto al fatto che appunto l'acqua viene messa sul mercato alla stessa stregua, diciamo, delle altre merci, e tant'è che appunto i consumi sono previsti in aumento in tutti i casi, e io credo che questa sia assolutamente una dei grandi errori, appunto, del considerare l'acqua una merce. Uno dei casi più eclatanti rispetto appunto a una gestione privata rispetto a questo tipo è per esempio l'azienda che gestisce i servizi idrici nel Lazio, ma anche in tante altre parti del centro Italia, che è Acea. Acea è una società misto pubblico-privata, addirittura quotata in borsa dal 99, ossia quel modello che con il decreto Ronchi si vuole esportare a tutta Italia. Ora, dopo 10 anni di gestione di quello che dovrebbe essere l'esempio per tutti, uno studio di una fondazione che fa capo a Mediobanca, quindi non sono dati, diciamo, del movimento che potrebbero essere, diciamo, di parte, e ci dicono che le reti idriche che disperdono più acqua in Italia per chilometro sono proprio quelle dell'ACEA. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente il privato non ha interesse al gestire la risorsa per come, diciamo, dovrebbe essere una risorsa oculata nei confronti delle dispersioni idriche e dei consumi, ma è ovviamente attenta a quello che è l'andamento dei titoli in borsa, al fatto che gli utili aumentino di anno dopo anno. Un altro esempio eclatante è questo che è avvenuto pochi giorni fa proprio qua a Roma, nel momento in cui Alemanno, seguendo in parte i dettami del decreto Ronchi, ha annunciato che vuole far scendere la quota della partecipazione del Comune di Roma in ACEA al 30% entro il 2010. È stato convocato un consiglio comunale, quindi l'organo, diciamo, rappresentativo dei cittadini di Roma rispetto anche alla gestione di un servizio come quello idrico. Ora, l'orario della convocazione del Consiglio Comunale è stato spostato su espressa richiesta della Consob, perché il Consiglio Comunale non poteva dare un parere su questa operazione prima che i mercati fossero chiusi. Allora ci rendiamo conto di quello che è il livello nel momento in cui un bene come l'acqua viene messo sul mercato, cioè che è l'andamento dei mercati finanziari che detta assolutamente le regole. Questo ci viene confermato anche dal fatto che poi chi sono questi privati che intervengono acquistando i pacchetti azionari che sono già stati messi sul mercato, ma che verranno anche messi nel mercato nel prossimo futuro. Sono le grandi multinazionali dell'acqua, multinazionali che sono soprattutto le due più grandi, sono le francesi. Calcoliamo, cioè teniamo in considerazione che le due più grandi multinazionali francesi, cioè Veolia e Suez, sono state mandate a casa nel cuore del loro impero dopo 25 anni di gestione dissennata del servizio idrico a Parigi. Cioè a Parigi oggi si ripubblicizza l'acqua dopo che erano stati i primi in Europa a dare mandato, cioè a dare ai privati la gestione dell'acqua, perché ovviamente ci si è resi conto che non è assolutamente una gestione più efficiente, e non possiamo dire che allora pure in Francia non esistono i controlli, oppure anche in altri paesi europei, anche la legislazione belga prevede il fatto che l'acqua venga gestita pubblicamente. Teniamo in considerazione che a Roma, nella Suez, una parte del pacchetto azionario è detenuto da fondi di investimento svizzeri, che sicuramente quale interesse hanno a entrare nella partecipazione di società a questo tipo se non per massimizzare i loro profitti? Allora io credo che questo sia un rischio enorme nel momento in cui, diciamo, un bene come l'acqua viene messo sul mercato e quindi si lascia poi alla speculazione dei finanzieri e dei capitali finanziari. Marino, lo citavamo prima in apertura, lei ha pubblicato un libro a gennaio che si intitola La casta dell'acqua. Immagino che abbia fatto delle ricerche e questo sia stato la conclusione delle sue inchieste. Chi appartiene alla casta dell'acqua in Italia? Quali sono e chi sono i membri? Ma diciamo che anche gli esempi che ha citato Cassetti in questo senso sono interessanti, perché la CEA è quotata in borsa, è vero, ma l'amministratore delegato è espressione del Comune di Roma. La Suez, curiosamente, viene citata di Caltagirone, direi pure. Esatto, però quello che rivela, diciamo, questo esempio qui è proprio il livello di commistione che c'è tra interessi privati e mano pubblica, e io non credo che il semplice dire pubblicizzazione risolva questo problema. perché per esempio la Suez, che è appunto socia di Acea, è una delle due grandi multinazionali francesi più presenti in Italia, il nocciolo duro dell'azionariato della Suez è lo Stato francese, quindi anche quando si parla di privatizzare in realtà qua si parla di far entrare lo Stato francese, ma comunque vuol dire in altri settori altrettanto delicati, tipo l'energia, si è visto che per esempio alcuni tipi di regolamentazioni possono funzionare, cioè non è che il pubblico in Italia sia in generale garanzia di efficienza e di evitare sprechi. Io temo che affidare a questa casta, che appunto è composta sia di, anche di interessi economici sicuramente, come appunto il costruttore Caltagirone, che ha una grossa quota di una quota importante dell'azionariato di Acea e che era interessato per esempio alla privatizzazione dell'acquedotto pugliese, che per adesso è stata messa in discussione dal nuovo dal governo regionale, ma è composta anche da esponenti politici. Non ci dimentichiamo che per esempio all'interno dell'azionariato di Acea gli esponenti invece legati alla politica sono in parte espressioni dell'UDC, vicini all'UDC diciamo. E per esempio c'è anche un altro componente che invece è impegnato nella Fondazione Italiani Europei, che come sappiamo è una fondazione vicina all'onorevole D'Alema. Quindi come si vede l'intreccio è molto stretto, insomma, ritengo che soltanto delle regole chiare ci possano che evitano anche conflitti di interesse che sono frequentissimi. Qui abbiamo il caso, non so, della società che gestisce l'acqua a Latina, l'amministratore delegato nominato dal socio privato, la multinazionale francese, e il presidente della società è un senatore. Sono situazioni di commistione in cui il pubblico dovrebbe controllare il privato, ma allo stesso tempo fa parte del soggetto che dovrebbe controllare. Sono queste situazioni che vanno evitate e soltanto delle regole chiare possono evitarlo. Non credo che il semplice ricorso al concetto di pubblico ci possa garantire, come si è visto in tanti anni di gestione di tanti altri servizi pubblici che purtroppo invece non hanno funzionato bene. E mi spiace, ma con questo vi devo congedare come avevo preannunciato. E comunque un saluto agli ascoltatori e un in bocca al lupo per la manifestazione. Grazie mille per la partecipazione. Grazie anche da parte dello studio e buon lavoro. Arrivederci. E buon lavoro. Grazie. Paolo, le vorrei fare una domanda circa i tre referendum abrogativi che il Forum Italiano sta promuovendo, promuoverà, quindi tre referendum abrogativi sulle norme che hanno privatizzato l'acqua. Diciamo, vorrei chiederle come valuta il possibile risultato di questi referendum, quale secondo lei potrà essere il risultato, e le vorrei anche chiedere quale attenzione stanno dando i media italiani a tutta questa questione e anche alla manifestazione che ci sarà il 20 marzo. Sì, io ci tengo solo a fare una precisazione rispetto al discorso, diciamo, che è stato avviato finora in questa revisione. Diciamo, una delle grandi mistificazioni che è stata fatta anche con l'approvazione di Trocchi, e non per fare il discorso del tipo, anche no, il discorso del fatto che il ricorso al mercato con le sue regole garantirà una maggiore efficienza, perché appunto ci sarà una concorrenza tra i diversi gestori. Ora, questa è una bugia grande quanto una casa, perché anche, diciamo, uno studente alle prime armi, sia in economia o anche in qualsiasi altra facoltà scientifica, sa bene che rispetto all'acqua si parla di un monopolio naturale, cioè non c'è assolutamente nessuna possibilità di concorrenza, anche perché le gestioni vengono date in concessione per 30 anni. Allora, un gestore praticamente viene chiamato a gestire degli acquedotti che praticamente captano l'acqua o da alcuni pozzi o da alcune sorgenti. Non c'è assolutamente la possibilità in quell'arco di tempo in cui viene chiamato a gestire che qualcun altro, qualche altro soggetto possa subentrare o possa fargli concorrenza, perché non stiamo parlando di qualcosa che viene immesso nell'etere come le onde, diciamo, dei telefonini, della rete telefonica mobile, oppure energia elettrica che viene prodotta da una centrale di nuova costruzione immessa nella rete. Qui si sta parlando di una risorsa che è ben determinata e allocata, diciamo, nel territorio, per cui appunto si parla di monopolio naturale, parlare di liberalizzazione è una mistificazione per far digerire meglio, diciamo, la pappa ai cittadini. Per cui, per questo a me il ricorso al mercato e a noi il ricorso al mercato, diciamo, ci stupisce molto come soluzione rispetto a una maggiore efficienza, perché quando parliamo del male del pubblico in quanto era un monopolio e per tutte le conseguenze, diciamo, che apportava il fatto che la politica era molto influente, le riscontriamo lo stesso in un monopolio privato, le stesse identiche, diciamo, dinamiche. Rispetto al referendum, noi diciamo, già con la manifestazione del 20 promuoveremo, diciamo, e lanceremo questa campagna di raccolta firme, perché si tratta di iniziare a raccogliere le firme necessarie affinché poi si possa andare a votare nella primavera del 2011, e chiederemo ovviamente a tutti i cittadini e alle cittadine italiane di firmare e sottoscrivere tre quesiti referendari. Un quesito che riguarda l'abrogazione del decreto Ronchi, dell'articolo 15 del decreto Ronchi, un quesito che riguarda invece il decreto, cosiddetto decreto ambientale, che appunto ha portato già alla privatizzazione in parte del servizio idrico italiano, e un terzo quesito che è molto, diciamo così, simbolico ma anche efficace, perché è su un articolo che va a disciplinare la costruzione della tariffa, per cui gli utenti italiani sono costretti già in tariffa a pagare i profitti dei gestori, perché viene praticamente sancito che la tariffa deve tener conto della remunerazione del capitale investito, ossia appunto di una quota del pari al 7% dei capitali che vengono investiti, che entrano direttamente nelle tasche dei gestori. Per questo c'è anche una grande appetibilità nella gestione del servizio idrico, perché essendo garantiti i profitti già per legge e quindi in tariffa, non c'è assolutamente nessun rischio di impresa, cioè ogni soggetto privato avrà, diciamo, la mira e l'aspirazione di entrare a gestire, diciamo, un servizio del genere, perché ovviamente sa per certo che quantomeno una certa quota di profitti sono assicurati dal fatto che ognuno è obbligato a pagarli per legge. Per cui, per riassumere con uno slogan i tre quesiti, noi andremo a chiedere agli italiani di dire fuori l'acqua dal mercato, perché non sarà più possibile se il referendum raggiungerà poi il quorum nel 2011, e fuori i profitti dall'acqua con il terzo quesito. Bene Paolo, non ci resta che ringraziarla e salutarla, ovviamente fare i migliori auguri per la manifestazione di sabato 20 marzo. Magari ricordiamo a che ora è e dov'è? Sì, la manifestazione inizierà da Piazza della Repubblica a Roma alle ore 14, percorrerà il centro storico di Roma passando per via Cavour, Piazza Venezia, Largo di Torre Argentina, per concludersi poi intorno alle 19:30 con gli interventi dei vari rappresentanti delle realtà che hanno aderito alla manifestazione a Piazza Navona. Bene, allora Annalisa, non ci resta che ringraziare anche il secondo ospite. Certo, un grazie. Qualcosa da aggiungere? No, un caloroso ringraziamento a Paolo per il suo contributo e buon lavoro. Grazie a tutti voi dell'attenzione. Buona serata. Facciamo ora una pausa musicale e poi passeremo al secondo tema di questa sera. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Passiamo ora al secondo tema di questa serata, ci spostiamo ora in Turchia e come saprete lo scorso febbraio più di 40 militari sono stati arrestati con l'accusa di essere gli organizzatori di un presunto colpo di Stato contro il governo Erdogan. Alcuni indiziati sono stati rilasciati, il presidente Gül ha rassicurato la popolazione Costituzione, e sostenendo che tutto sarà risolto nel quadro delle leggi e della Costituzione. Secondo notizie che sono state pubblicate dai giornali, questo piano prevedeva che i militari facessero esplodere bombe nelle moschee, attaccassero con ordigni incendiari i musei, facessero addirittura precipitare un aereo di linea turco per fare sembrare che fosse stato abbattuto da un caccia militare greco. Sostanzialmente lo scopo del piano, secondo quanto riportato dai giornali, era quello di creare una situazione di caos e di tensione e di fare sostanzialmente pressioni sul governo e screditare il governo, dimostrando che non era in grado di proteggere la popolazione. Inoltre, come i nostri radioascoltatori sapranno, il 4 marzo scorso, spostandoci negli Stati Uniti, la Commissione Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti del Congresso statunitense ha votato una risoluzione che definisce genocidio l'uccisione di centinaia di migliaia di armeni da parte dell'Impero Ottomano nel 1915. Quindi una questione, quella del genocidio armeno, che compare molto spesso nelle notizie, ovviamente motivo di tensione tra Turchia e Armenia, e ripetuta periodicamente anche motivo di tensione tra Stati Uniti e Turchia. Alessandra, ne parliamo quindi con la nostra ospite di questa sera? Sì, esatto, ne parliamo con l'ospite di questa sera, che è già in collegamento, Tiziana Prezzo, giornalista di Sky TG24, segue ormai da diversi anni tutti i principali fatti legati alla politica e alla vita turca per la televisione Sky 24. Ha vissuto a Istanbul negli anni 2007-2008, da dove ha lavorato come corrispondente per La Stampa, Corriere Magazine e altre testate. Da 2 anni cura anche un blog seguitissimo dedicato alla Turchia, che si chiama Cose Turche. Il blog lo potete trovare a coseturche.blogsfere.it. Tiziana, ci sei? Sì, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Buonasera e prima cosa grazie mille per intervenire questa sera. Dunque, Annalisa in apertura parlava degli avvenimenti dei 40 militari che sono stati arrestati, eccetera. Siamo alla resa dei conti tra il governo filo-islamico di Erdogan e i militari, considerati ormai come i protettori della Turchia laica, che era quella fondata da Atatürk? Allora, diciamo che questa resa dei conti ormai va avanti da diversi anni. Gli arresti che menzionavate prima, i 40 militari arrestati, facevano parte del cosiddetto operazione Balyoz, che aveva origini nel 2002. Allora, di fatto, di tutto quello che è stato puntualmente raccontato prima, nei fatti nulla di tutto quello poi si è realizzato, di questo bisogna tenere conto. Così come giustamente ricordavate che molti arresti poi non sono seguiti dei veri e propri, al fermo di polizia dei veri e propri arresti, ma molte persone sono state rilasciate. Oggi stesso, è proprio cronaca di poche ore fa, altre 28 persone, tra cui anche militari in servizio e in pensione, sono stati arrestati dalla polizia turca in una vasta operazione condotta nell'ambito delle indagini del caso Ergenekon, che è il caso più emblematico di questi ultimi anni, direi dal settembre 2007 in avanti. Ebbene, che cos'è Ergenekon? È questo complotto che una serie di militari in pensione e non, insieme anche a gente che fa parte dell'intelligenza, quindi delle università, dei giornalisti, insomma anche di alcune ONG che si rifanno al pensiero di Atatürk, avrebbero pianificato proprio per togliere il potere a Erdogan e agli islamo moderati. Ebbene, questa è una vicenda estremamente controversa, in cui sicuramente le due anime della Turchia, quella se vogliamo laica e quella più islamica, anche se è un termine che va sempre usato con cautela per quanto riguarda la Turchia, sono fortemente contrapposte. Le tensioni sì, sono molto forti, la magistratura a seconda dei magistrati pende più da una parte o più dall'altra, anche se secondo il primo ministro Erdogan pende molto di più dalla parte dei militari, e quindi sono tensioni che vanno avanti sempre di più nel tempo, ma si procede su un limitare, cioè io direi che proprio quel timore che è stato anche descritto dai giornali nelle ultime settimane di colpe di Stato, cioè l'idea che si può fare la gente di trovare i carri armati per strada, ecco, in Turchia questo rischio non c'è. Tiziana, probabilmente un'azione di questo tipo contro l'esercito e contro i militari sarebbe stata impensabile solo qualche anno fa. Ecco, ti vorrei chiedere com'è cambiato il ruolo dell'esercito e dei militari da quando è al governo il partito Giustizia e Sviluppo di Erdogan. Ecco, guarda, esattamente così. Questo tipo di scenario che si vede in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, sicuramente anni fa sarebbe stato effettivamente diverso. Cioè anni fa, insomma, ci sarebbe stato magari veramente un golpe vero e proprio. A cambiare fondamentalmente è lo scenario intorno alla Turchia, cioè lo scenario politico internazionale e in modo particolare l'Unione Europea. Allora noi sappiamo benissimo, sapete benissimo anche voi che insomma uno dei requisiti fondamentali per la Turchia per entrare in Europa, tra tanti nodi che devono essere ancora sciolti, c'è anche quello che insomma l'Europa e Bruxelles non guarda con favore tutto questo potere che hanno ancora i militari, e i militari un po' che sono sempre stati l'istituzione per eccellenza in Turchia, hanno sempre goduto di un prestigio enorme tra la popolazione. Ecco, un po' di quel prestigio negli ultimi anni si è andato un po' sgretolando, anche per fasi, anche per questioni precedenti a Ergenekon, a fatti di cronaca in cui insomma militari sono stati trovati in compagnia di persone dal passato e dal presente piuttosto discutibile, vicini ad ambienti mafiosi turchi, insomma da lì alcuni elementi hanno cominciato a sgretolarsi, ma sicuramente ecco, anche all'interno della realtà militare, che non bisogna mai ritenere una realtà monolita in Turchia, insomma ci sono sensibilità come quella del generale del Bashburg, che insomma si rendono benissimo conto che il contesto internazionale è cambiato e di questo bisogna tenere conto. Annalisa la citava prima, la risoluzione della Commissione degli Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, che ad inizio mese ha riconosciuto come genocidio il massacro perpetrato dall'Impero Ottomano contro gli armeni fra il 1915 e il 1923. In Europa ci sono alcuni stati che hanno riconosciuto questo massacro come genocidio, ricordiamo la Francia l'ha riconosciuto nel 98, l'Italia con una risoluzione della Camera dei Deputati nel 2000. Come vedi questo problema costante che ritorna periodicamente sui media, anche in visione della ipotetica futura adesione della Turchia all'Unione Europea? Allora io direi soprattutto questo, citavate appunto giustamente prima gli Stati Uniti, citavi giustamente la Francia, proprio negli ultimi giorni, nelle ultime settimane all'elenco si è aggiunta anche la Svezia, con subito fortissime tensioni si sono create tra Turchia e Svezia, e questo nonostante il fatto che la Svezia sia favorevole all'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. In generale, come ho avuto modo molto spesso anche di parlare con gli armeni che vivono ancora ad Istanbul in modo particolare, gli armeni che vivono in Turchia non vedono favorevolmente questo tipo di iniziative, le vedono e giustamente secondo me in maniera controproducente, perché insomma si è arrivati in una fase estremamente delicata dei rapporti tra Turchia e Armenia. Sforzi notevolissimi sono stati fatti da entrambe le parti, in particolare in Turchia da parte del presidente Abdullah Gül. Pochi mesi fa l'ho intervistato ad Ankara nel palazzo della Çankaya e una delle domande è stata proprio questa: riusciremo ad aprire il confine nel 2010? Lui se l'è cavata una risposta molto cauta e molto diplomatica, ma la speranza autentica c'era e mi auguro che ci sia ancora. Questo tipo di risoluzioni invece fanno sì che poi i turchi, che sono un popolo comunque emotivo, sono molto orgogliosi e anche, lasciatemi dire, permalosi rispetto a un argomento del genere che tuttora in Turchia resta un tabù, rischiano veramente di chiudersi in se stessi e quindi anche il dialogo, il processo di normalizzazione con l'Armenia rischia di avere pesanti ripercussioni e la Turchia rischia anche effettivamente di allontanarsi ulteriormente dall'Unione Europea. Tiziana, tu hai vissuto in Turchia e da quindi parecchi anni che lavori sulla Turchia, conosci molto bene la realtà. Si diceva prima, i critici accusano Erdogan e il suo partito di voler trasformare la Turchia, tradizionalmente laica, in uno stato islamico. Io ti vorrei chiedere, per quello che tu hai visto, in base alla tua esperienza, condividi questi timori, o questi timori sono eccessivi? Ci sono veramente delle prove, degli esempi che si possono portare a riguardo? Questa è stata una delle prime domande che veramente ho cominciato a farmi quando ho cominciato veramente a vivere, a frequentare assiduamente la Turchia. C'era della paranoia o c'è qualcosa effettivamente di vero? La Turchia in generale, il popolo turco in generale, tende a vedere complotti e minacce sempre e comunque, quindi da occhio esterno guardavo con un certo scetticismo alla cosiddetta Gözlü Agenda, cioè l'agenda nascosta che potrebbe avere il primo ministro Erdogan. Devo dire che poi effettivamente stando lì, guardando più da vicino Erdogan, ci sono delle cose che soprattutto nel 2008 mi hanno lasciato perplessa, nel senso che io non ho visto mentre stavo lì Erdogan sforzarsi così tanto di risolvere tutti i gravosi nodi che ancora ci sono per entrare nell'Unione Europea, tanto quanto per esempio sforzarsi di cambiare la Costituzione, o per esempio uno dei cavalli di battaglia del suo partito, insomma, la possibilità per le donne musulmane di portare il velo anche all'interno delle università e degli uffici pubblici, cosa che sappiamo bene in Turchia non è possibile, perché il tipo di laicità che c'è in Turchia è strettamente alla francese, ecco, molto molto rigorosa. Tutta una serie di piccoli segnali che effettivamente fanno pensare, e più in generale in termini di politica estera, la Turchia ha migliorato notevolmente i rapporti con i propri vicini, Iran e Siria in testa. Non si può dire lo stesso dei rapporti con l'Europa. Io ho molto forte la sensazione, ed è più che una sensazione, abbastanza comprovata dai fatti, che insomma la Turchia era molto più vicina all'Europa nel 2005 che non adesso. Tiziana, vorrei tornare al discorso quindi dell'Europa e dell'Unione Europea. Il governo ovviamente rifiuta tutte queste critiche, ha sempre sostenuto che il suo obiettivo è modernizzare il paese in vista dell'entrata nell'Unione Europea, però ora siamo obiettivamente in una fase di stallo, c'è sicuramente minore spinta in Turchia verso le riforme da parte del governo. Se non sbaglio, soltanto un capitolo di adesione nei negoziati è stato concluso, 11 sono stati aperti, 8 sono bloccati, poi c'è la questione tra Turchia e Cipro. Allo stato attuale tu come valuti le possibilità della Turchia di entrare a far parte dell'Unione Europea e di un completamento di questi negoziati di adesione? Guarda, tutto quello che dici tu è molto giusto, cioè effettivamente un capitolo dell'adesione è stato chiuso, ci sono 11 aperti, ma insomma sono un po' lì così, un po' lasciati sospesi, 8 sono bloccati. A me è capitato di essere a Cipro nel momento in cui è stata aperta quella che i turchi chiamano Lokmacı Köprüsü, cioè un passaggio nella capitale da una parte all'altra. Non esiste un muro vero e proprio tra le due parti della capitale, ma insomma c'è una divisione anche proprio fisica. Ricordo di aver vissuto quel giorno e quel momento con ottimismo. Avevo scritto un articolo proprio per il quotidiano La Stampa, in cui, ricordo il titolo che avevano scelto, era "Si sgretola l'ultimo muro d'Europa". E beh, da quel giorno mi sarei aspettato un avanzamento del processo di normalizzazione molto più veloce. Invece tutto è molto lento. Stasera sentivo un'intervista al presidente turco cipriota Talat, tra poco ci saranno le elezioni dalla parte turca dell'isola ad aprile, insomma diceva i colloqui vanno avanti, però di fatto stringi, questo nodo non si riesce a sciogliere, e già solo questo basta per tenere la Turchia fuori dall'Europa. E poi, come giustamente ricordavi tu, insomma, mentre il primo governo Erdogan aveva fatto significativi cambiamenti nella Costituzione in termini di diritti alle donne, di diritti civili in generale, insomma aveva messo mano al codice penale e tutto quanto, quindi una serie di trasformazioni notevoli, ecco, nel secondo mandato Erdogan tutto questo, questa spinta verso l'Europa non si è vista affatto, mentre molto di più, dicevo, si è visto negli sforzi di migliorare i rapporti con l'Iran, con la Siria, ma anche con l'Iraq e altri paesi arabi. Insomma, questo dà da pensare. È una carta che Erdogan vuole giocare in Europa per ribadire l'importanza, la strategicità della Turchia in Europa, o è perché insomma si stanno cercando strade alternative? E questo è un grosso quesito, è un grosso punto di domanda. L'impressione che ho io è che effettivamente la Turchia invece si stia allontanando dal vecchio continente e che insomma si stia inventando un futuro e un ruolo a livello internazionale di tipo diverso. Insomma, queste trattative con Bruxelles vanno avanti stancamente, ma perché più da entrambe le parti si per opportunismo quasi, o senso di opportunità, si sente che insomma queste trattative devono comunque andare avanti e tenersi aperte, ma insomma la spinta si sta un po' esaurendo. Tiziana, siamo arrivati in conclusione, non ci resta che salutarti perché veramente non abbiamo più tempo neanche per un'ultima battuta. Ti auguriamo buon lavoro e grazie infinite per la tua partecipazione. Un grazie Tiziana. Grazie a voi. Un grazie anche da parte dello studio, buon lavoro e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. La Turchia è sicuramente un tema che continueremo a trattare qui a Giro di Boa. Cari radioascoltatori, siamo in chiusura, quindi non ci resta che darvi l'appuntamento a giovedì prossimo.